Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare. Cinema o corsa? Non scegliete voi, lasciate che a parlare sia il vostro ginocchio. Se, quando siete seduti, si lamenta tanto che dovete allungarlo un po' per metterlo a tacere, o se invece quando correte sentite un dolore nella parte anteriore o laterale, fermatevi e chiamateci qui in studio a grande richiesta. E tornate a trovarci il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. 800 24 00 24. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Professor D'Anchise, da cinema, da corridore, da saltatore, senza dimenticare quello della lavandaia, non credo ci sia un'articolazione che vanta tanti appellativi come il ginocchio. Sarà speciale, ma diciamoci la verità, ne ha sempre una. Innanzitutto non solo davanti, non solo di laterale, ma anche dietro e anche alla parte interna. Quindi qualsiasi parte del ginocchio vi possa far male, dateci un colpo di telefono. Parlando del ginocchio, io ogni tanto dico sempre che sembra un errore di natura, perché madre natura ha messo una parte tonda, che è la parte finale del femore, che sono i condili femorali, che si appoggia su una parte piatta, e allora non sapeva bene come metterli insieme, e allora ci ha dovuto mettere dentro i legamenti, i menischi, la capsula articolare, e ovviamente tutte queste formazioni hanno un rischio di rottura, di lesione o comunque di sofferenza. Quindi è sicuramente un'articolazione infelice. Se noi consideriamo l'anca, la caviglia, il gomito, sono articolazioni che hanno una stabilità intrinseca per la loro forma, cioè sono contenute, una parte dell'articolazione è contenuta nell'altra, e quindi stanno insieme già per conto loro. Quindi il ginocchio, ben pensarci, doveva dire: mi è venuto male, lo butto, esatto, via, ne faccio un altro. Invece, non si poteva, e hanno dovuto mettergli qualche cosa. Hanno cominciato con i legamenti, con i menischi, e tutto si può rompere. Come tutti noi sappiamo che più complessa è un'automobile e più c'è il rischio che qualche cosina non funziona. Anche se quando tutto va bene funziona perfettamente. 800 24 00 24. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. Pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi: visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. E partiamo, professor D'Anchise, dal ginocchio del corridore che vive la sua stagione d'oro, perché è tempo di maratone. Sì, anche con qualche problemino, insomma. Comunque, diciamo che la corsa è certamente uno sport che fa bene al fisico, non fa tanto bene alle ginocchia. Come sempre, l'attività sportiva è giusto che venga fatta, però deve essere fatta sempre con buon senso. La corsa è molto pesante, perché noi abbiamo il saltino nel fare la corsa, e questo naturalmente è una sollecitazione che, ripetuta innumerevoli volte, può creare una situazione di sofferenza della cartilagine. La cartilagine è quel tessuto che riveste le superfici articolari e ha un contenuto elastico, diciamo, sì, così, quindi maggiori sono le sollecitazioni e maggiore è il rischio che questa cartilagine possa soffrire. E purtroppo la cartilagine è un tessuto che tende a non riformarsi, e questo evidentemente nel tempo può creare delle problematiche in termini di dolore, di usura dell'articolazione, e quando si usura la cartilagine si ha l'artrosi. E lì. Però voglio dire, come sempre, queste attività devono essere fatte bene. Se vengono fatte bene, il rischio è certamente inferiore, e devono essere fatte su una muscolatura allenata, perché questo è un altro elemento importante. Il ginocchio è fatto anche dalla muscolatura, che non fa parte dell'articolazione, ma aiuta l'articolazione a lavorare bene. Se noi abbiamo una muscolatura non valida, tutta la fatica, per così dire, viene affidata all'articolazione, che ne soffre perché non ha un supporto periferico. Quindi, corridore avvisato, ginocchio salvato. In linea con noi abbiamo Fulvio Massini, consulente per l'allenamento, coordinatore tecnico di Runner World Italia e autore di Andiamo a correre. Ciao Fulvio. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buongiorno. Fulvio. Buongiorno, dottore. Allora, gli studiosi della fisiologia sportiva hanno scoperto che c'è un collegamento tra la debolezza dei muscoli dell'anca e i problemi alle ginocchia così frequenti nei runner. Giusto. Ecco. Questo è vero. Effettivamente i muscoli del runner tendono a indebolirsi, perché soprattutto quando vengono fatti molti chilometri il muscolo tende a perdere forza. Ma è un problema anche di impostazione biomeccanica. Cioè, noi in questi anni abbiamo visto che con un'impostazione biomeccanica adeguata si riesce a diminuire quello che diceva prima il dottore, il saltello. Sì. Quindi diminuendo il saltello e diminuendo l'impatto, e con un'impostazione adeguata del baricentro e tendo a spostarsi in avanti, si diminuisce proprio questa parte, diciamo, dannosa della corsa. Il professor D'Anchise sottolineava che è molto importante potenziare anche i muscoli della gamba. Tu hai qualche suggerimento? Sì, è molto importante potenziare i muscoli della gamba con due varianti. Noi facciamo fare un esercizio un po' praticamente a tutti, un esercizio in forma isometrica, per cui si tratta semplicemente di stare appoggiati con la schiena a una parete, tenendo gli angoli a 90 gradi, cioè gli angoli fra busto e cosce, fra cosce e gamba e fra gamba e caviglia a 90 gradi. Sì. Questo è un esercizio da farsi in forma isometrica, molto semplice, da ripetere 3, 5, 10 volte, che però permette di potenziare tutti i muscoli che contribuiscono, come diceva il dottore prima, alla salute dell'articolazione del ginocchio, in questo caso anche della caviglia. Questo è l'esercizio fondamentale. Quindi praticamente, Fulvio, stiamo seduti come se avessimo sotto una sedia, ma senza esatto. sedia. Che è un po' l'esercizio che viene fatto tutte le volte che si vogliono rinforzare i muscoli dell'arto. Quindi anche per la presciistica è più o meno lo stesso tipo di esercizio di base, che io concordo perfettamente. Quindi questa sedia senza sedia, quando bisogna farla, Fulvio? Allora, oltre a questi vorrei aggiungere anche l'esercizio di ginnastica propriocettiva. Sì. Questi bisogna farli prima di andare a correre, poche volte, dopo la corsa, perché anche questo dopo la corsa, soprattutto quando si fanno molti chilometri, c'è perdita di tono muscolare, e qualche volta anche nei giorni in cui non si tende a correre, proprio perché questi muscoli tendono a perdere forza con una facilità incredibile. Uh-huh. E quindi questa forza bisogna cercare di mantenerla. Io vi ho detto l'esercizio più semplice e facile da parlarne, poi ce ne sono anche altri esercizi da fare in palestra, come per esempio la pressa, però questo e la propriocettiva sono esercizi da fare sistematicamente da parte del runner. Professor D'Anchise, moltissimi... Due parole sul discorso propriocettivo, perché sì. molti magari non capiscono bene il significato. Sono degli esercizi che stimolano con sollecitazioni anomale ma controllate la possibilità di rispondere a sollecitazioni anomale nelle quali ci si può trovare. Per esempio, si usano molto per la caviglia, c'è una tavoletta con una emisfera sotto, quindi appoggiando il piede si è in un equilibrio precario, e stimolati ci si abitua alla sollecitazione anomala in maniera tale che quando ci si trova di fronte all'emergenza siamo istintivamente disponibili a modificare e a correggere ed evitare il rischio di avere traumi. Vorrei soltanto aggiungere che prima della tavoletta io li faccio fare senza tavoletta. Basta un semplice esercizio che posso descrivere: stando in equilibrio su un piede solo e scrivendo con l'arto libero l'alfabeto. Questo è già un esercizio di propriocettiva che dà ottimi risultati, oppure scrivendo il proprio nome, oppure scrivendo tutte le lettere, alla fidanzata. Una lettera alla fidanzata. È un ottimo esercizio che permette però di rafforzare tutti quei meccanismi del quale parlava giustamente prima il dottore. Professor D'Anchise, molti runner sono colpiti anche da quella che è una sindrome con un nome complicato, si chiama sindrome della bandelletta ileotibiale. In pratica che cos'è? Dove hanno male? Hanno male nella parte laterale del ginocchio, la parte esterna, sì? Ed è la bandelletta ileotibiale, è una, la parte finale, se così vogliamo dire, di una grossa fascia che ricopre la muscolatura della parte esterna del ginocchio, che alla fine diventa molto robusta, è una specie di legamento della parte esterna che in determinate situazioni si può infiammare. Fulvio? Sì. Quindi male, che cosa si può fare per evitare questa sindrome dal nome complicato, che soprattutto al di là del nome può essere anche molto dolorosa? Poi sappiamo che i runner tendono a andare oltre, cioè avvertono un dolorino, non si fermano, vero Fulvio? Sì, che siete un po' così, ecco. Questa è una caratteristica di tutti noi, che si corre. Per noi il male è un optional, noi andiamo sempre a diritto. Noi vogliamo sempre arrivare prima, arrivare veloci. Per noi fermarsi è offensivo dire di fermarsi, no? Il riposo per noi è una maledizione, siamo tutti uguali, per cui niente. Però quando c'è la bandelletta, cosa bisogna fare? Prima lavorare sulla tecnica di corsa, il discorso che facevamo anche la volta scorsa, questo baricentro spostato in avanti, questo appoggio di pianta e non di tallone, con questo otteniamo dei grandissimi risultati. Sì. Poi stretching, sono un paio di esercizi difficilmente descrivibili per radio, che uno è accavallando la gamba su alza da schiena in terra e tirando sull'altro ginocchio, sì, e l'altro portando la gamba dalla parte opposta, sempre da schiena in terra. Ecco, questi due esercizi che permettono di stirare tutta la muscolatura del tessore, della fascia lata, della muscolatura laterale, con questi si ottengono dei buoni risultati. Altro particolare dove bisogna stare molto attenti è il discorso delle calzature. È lì, sì. Sì. Fondamentale, fondamentale. Due indicazioni prima di salutarci, Fulvio, sulle calzature. Lo so che è difficile generalizzare, ma almeno aiutare i nostri ascoltatori a evitare proprio errori grossolani. Sì, esatto. Soprattutto bisogna stare attenti a non prendere scarpe antipronazione, con i supporti antipronazione, quando non c'è bisogno. La scarpa antipronazione deve essere calzata soltanto da un podista che prona con tutti e due i piedi e prona in modo piuttosto accentuato, perché il dottore mi corregga se sbaglio, un po' di pronazione è fisiologica e quindi un certo po' bisogna mantenere. Professore vuole correggere o è d'accordo? Non correggo. Fulvio, ti è andata bene, perché il professor D'Anchise non è proprio come si dice, Allora, sì, bravo Fulvio, e quindi bisogna andare prima da un professionista o in un negozio specializzato che fa un controllo dell'appoggio, e in base al controllo dell'appoggio consigli la scarpa adeguata. Certo. Che in chi c'è il problema della bandelletta deve essere sempre una scarpa a appoggio neutro, senza supporti. Ecco, e un'ultima cosa, Fulvio, a proposito del riposo. Tu sottolineavi, per noi fermarci è quasi mai. Invece il riposo, come tu insegni, deve proprio far parte dell'allenamento. È vero? Il riposo è un mezzo allenamento. Se non c'è riposo non c'è nemmeno crescita nell'allenamento, perché il riposo permette di assorbire gli altri mezzi di allenamento. Allora, molti ascoltatori mi scrivono, non ho capito l'esercizio della sedia, faremo un video con Laura Vanossi che metteremo sul sito, la puntata la potete scaricare, chiederemo a Fulvio Massini di scriverci e quindi magari gli esercizi più difficili, magari ci manda un link, e poi aspettiamo Fulvio Massini qua in diretta in studio, che così lo filmiamo e ci facciamo allenare per la corsa. Grazie a Fulvio, buona giornata. Grazie a voi, grazie. Abbiamo Giovanni da Lecco, Carmelo da Milano e Michela da Latina. Do la precedenza a Michela, che ci chiama da Latina. Volevo prima fare due osservazioni. La prima è che è fondamentale, lo ha detto, però fare anche degli esercizi di stretching, cioè tutte le volte che noi alleniamo una muscolatura, cioè la rinforziamo correndo, facendo qualsiasi attività, sì? Dobbiamo poi fare degli esercizi di allungamento di quei muscoli. Prima osservazione. Seconda osservazione è che curare un maratoneta è la cosa più difficile, perché nel momento momento in cui uno dice dovrebbe fermarsi, questi svengono, sì. Non è possibile, e quando gli dice attenzione che potrebbe peggiorare la situazione, si perde il paziente. E vabbè, questo, la terza osservazione è che i maratoneti sono fortunati da una parte, cioè chi corre non ha rischi o ha rischi molto modesti di lesioni delle altre parti dell'articolazione, come i legamenti e come i menischi, perché è una corsa in linea retta e quindi l'articolazione lavora, per così dire, in maniera fisiologica, mentre il calciatore che fa il cambio di direzione, il giocatore di basket, il pallavolista, hanno un grosso rischio di lesioni legamentose e meniscali. Quindi c'è chi rischia di più. C'è chi rischia di più, è vero. Continuate a correre. Michela da Latina, buongiorno a lei, benvenuta. Pronto? Ma Michela, buongiorno, benvenuta. Pronto, buongiorno, salve. Io volevo fare una domanda. Praticamente durante il ballo, durante salsa, mi è successo di sentire un dolore dopo poco, e questo dolore ce l'ho già da un mese. Ho consultato l'ortopedico, il quale mi ha detto di stare tranquilla e prendere dei controprotettori, però adesso continua e altre persone mi hanno consigliato di fare una risonanza magnetica. Dovrei preoccuparmi perché potrebbe essere legamentosa o meno? Allora, prima di preoccuparci aspettiamo, che sì, c'è sempre tempo. Prima di preoccuparci aspettiamo. Balla, è una ballerina di salsa, professore D'Anchise, lo dico a lei perché ho scoperto che anche lei è un ballerino, non so se di Vabbè, salsa. Parliamo d'altro, parliamo di ginocchia che mi viene meglio. Vedi? Quando si ha una situazione di dolore vale sempre la pena di non fidarsi esclusivamente di una visita, cioè di un esame clinico, e fare una radiografia e una risonanza magnetica, che sono gli esami fondamentali. Per esempio l'ecografia serve a poco e anche la TAC serve a poco. Potrebbe essere, adesso lei ha una sintomatologia così modesta che è difficile poi qui in radio dare un parere, però potrebbe essere un problema del menisco. Se non è molto dolorosa, però io starei abbastanza tranquillo. Professor D'Anchise, quando noi abbiamo dolore e abbiniamo anche il gonfiore, il problema si complica? Il problema si complica perché il gonfiore di per sé non è una patologia, ma è una reazione negativa a una patologia dell'articolazione. Quindi se c'è il gonfiore c'è qualche cosa che non funziona realmente. Il dolorino può capitare, se passa ci si può anche non pensare. Mentre il gonfiore dobbiamo fare un pochino più di attenzione. Ecco, altro argomento, i controprotettori possono essere utili, però bisogna tenere presente che non è dimostrato in maniera assoluta un'efficacia. Possono essere utili nell'inizialissima sofferenza della cartilagine, però dare un controprotettore senza aver inquadrato il problema non è del tutto corretto. Carmelo, buongiorno da Milano, e poi Giovanni da Lecco. Carmelo, pronto? Buongiorno. Buongiorno. C'è anche Carmelo Lauricelle in regia, la parte tecnica, che quando dico Carmelo mi ha fatto per dire, vedi? Che però vedi sta bene. Che persone, sta che benone. Però sta bene. Sì. Niente, sì. Volevo fare una domanda. Io ho due problemi, non so se è una cosa normale o se è un problema. Avere due problemi non è normale. Primo, mi scricchiolano tutte e due le ginocchia. Non no? Si preoccupi, se scricchiolano e non fanno male, cancelliamo il problema. Però poi nel ginocchio destro mi capita 4-5 volte all'anno, mentre che sto camminando mi cede, mi viene un fortissimo dolore, non riesco più a muoverlo, dopo 3-4 minuti mi passa tutto, poi magari fra un quarto d'ora mi ricapita lo stesso problema, ripassa e poi sto tranquillo, fra 2-3-4 mesi mi ricapita sempre lo stesso problema. Allora, è molto difficile darle un parere. Teniamo presente che i cedimenti possono essere legati a diversi aspetti. Uno, e potrebbe essere il suo caso, una rotula non perfettamente stabile che in determinate situazioni si sposta leggermente dalla sua sede e dà il cedimento. Due, è possibile che ci sia una sofferenza di un menisco che in un certo movimento, anche una minima rotazione, può dare una situazione di questo genere. E, ma questo sarebbe già una situazione più importante rispetto a quella che lei dice, una lesione del legamento crociato anteriore che crea il cedimento nei cambi di direzione o nei salti. È chiaro che è un discorso molto, molto generico, vale la pena di fare qualche accertamento. Giovanni, buongiorno, da Lecco. Benvenuto, sì, eccoci. Buongiorno, io volevo chiedere fare una domanda al professore. Sì. Mi succede quando faccio gli scalini, mi fa male proprio in testa la rotola, solo in salita, in discesa. diciamo, è possibile che ci sia una sofferenza della cartilagine, della rotula, che, ecco, tenete presente che l'articolo, il ginocchio lo possiamo dividere in tre parti: una parte interna, una parte esterna e un'altra articolazione quasi a sé stante, che è l'articolazione tra la parte finale del femore, si chiama trocle, e la rotula. Quindi l'articolazione femoro-rotulea è quasi un'articolazione a sé ed è molto delicata, perché la rotula è una specie di carena di una nave che deve articolarsi in una zona che deve contenerla perfettamente. Quindi se questo non avviene, la cartilagine può progressivamente usurarsi. 800 24 00 24, ginocchio da cinema, da corridore, da saltatore, da lavandaia, quali altre ginocchia possiamo avere? Da camionista, da scrivania, da Carmelo Lauricella che è in regia la parte tecnica, ginocchia belle come quelle di Laura Vanossi, giovani, meno giovani, noi siamo qui, mercati, meteo e poi di nuovo insieme. Essere e benessere. Hai ragione, sai, io non sarò mai come voi. Guarda, c'è un bel film, se facciamo in tempo ci andrei. Dustin Hoffman, Al Pacino, la Dunaway, entriamo, c'è anche lei. C'è un posto, siedi, io resto in piedi. Vede, non ci sono più gli uomini in una volta. C'è un posto, siedi, io resto in piedi. Forse non c'era posto, era un cavaliere, o forse aveva il ginocchio da cinema, per questo non si sedeva. Può darsi. Vede, si chiama così, ginocchio da cinema, ma noi in realtà, professor D'Anchise, potremmo chiamarlo da scrivania, da treno, da aereo, perché parliamo di un ginocchio che quando sta fermo per un po' inizia a far male. È vero, quando noi rimaniamo a lungo col ginocchio flesso, già una persona che non ha problemi fa un po' fatica, però chi ha qualche problema, la posizione a ginocchio flesso è una posizione molto impegnativa per il ginocchio, perché se voi provate a estendere e rilasciare completamente la gamba, vedete che la rotula si muove agevolmente. Progressivamente, se noi flettiamo il ginocchio, la rotula va a incastrarsi nella sua sede e quindi c'è una compressione delle due cartilagini, della parte della rotula e della parte del femore. Questo, se la cartilagine non è perfetta, può creare una sintomatologia dolorosa. E quando si parlava del cinema, chi ha questo problema sì, va a cercare sempre un posto laterale dove poter allungare. Bravo. Il sì, ginocchio che fa la gamba che fa male. Il problema è che non la tira indietro quando passa. Io l'altra volta ero al cinema, a momenti mi stampo perché un signore aveva evidentemente il ginocchio da cinema, o mi ha fatto lo sgambetto apposta oppure si è dimenticato di avere la gamba lì e quindi si vola. A questo proposito io suggerisco sempre a chi ha avuto dei problemi, o comunque in assoluto, se si fanno dei lunghi viaggi in aereo per esempio, alzarsi ogni tanto, o comunque cercare di mettere in flettere ed estendere il ginocchio, perché questo dà un po' di respiro all'articolazione in quel momento. Ma quando si sta seduti con le gambe normali, un po' piegate. Sì, questo sì, certo. Quindi per il forza. Ginocchio sta benissimo. Sì. Non credo soffra di ginocchio da cinema la nostra Marta Cagnola, che le sue ginocchia al cinema le porta spesso. Ciao Marta! Buongiorno, sì, le porto molto molto spesso, e quando mi hai chiesto di parlare di ginocchio da cinema ho detto subito sì, e poi ho detto ma che cosa sarà mai il ginocchio da cinema? E intanto ho capito che effettivamente una sintomatologia in questo momento ho scoperto esiste. Ma il ginocchio e il cinema vanno anche molti altri aspetti in comune. Mi sono vanno a braccetto, direi. Vanno a gomitina, a ginocchino. Allora, intanto ci sono i film che ti fanno tremare le ginocchia. Allora, io non sono molto esperta di horror, non sono il mio pane, ogni tanto le devo guardare per mestiere, ma insomma non sono il mio piacere. Poi ci sono i film che fanno venire il latte alle ginocchia, e beh, insomma, anche quelli, ognuno sceglie quelli che vuole, ma ci sono anche film che parlano di ginocchia o che hanno qualcosa a che fare con le ginocchia. Senti qui, ho trovato, effettivamente era un po' sepolto nella mia memoria, Il ginocchio di Claire, di uno straordinario regista che era Eric Rohmer, quinto capitolo del ciclo dei sei racconti morali, 1970, con Jean-Claude Brialy straordinario e un giovane Fabrice Lucchini, che adesso è l'attore francese più amato. Ebbene, tutto ruota attorno all'ossessione per un ginocchio, per questo ginocchio dell'amata Claire, un film che secondo me vale proprio la pena. Devo vederlo, rivedere. Assolutamente. Bisogna dare tutte le indicazioni al professor D'Anchise, Marta. Ebbene sì, vi mando subito una mail, perché sì, è un film che ruota attorno all'ossessione per un ginocchio, e non era un ortopedico il protagonista. E poi c'è, insomma, 1964, Ettore Maria Fizzarotti, In ginocchio da te, come dimenticarlo, anche qui fa parte di una trilogia fondamentale insieme a Non son degno di te e Se non avessi più te. Stiamo parlando ovviamente di Gianni Morandi. Perché è importante questo film, In ginocchio da te? Perché Gianni Morandi conobbe Laura e Frichian e poi si sposarono. Non so se lui si era innamorato delle ginocchia, può anche essere. Infine citerei Un uomo in ginocchio, Damiano Damiani, 1979, con Giuliano Gemma e Michele Placido. Insomma. Qui le ginocchia sono una metafora, ovviamente è una storia molto dura, una storia di un uomo in gravi difficoltà economiche che viene coinvolto suo malgrado in brutte faccende di mafia. Marta, guarda, vedevo il professor D'Anchise che il suo ginocchio non ho visto come l'ha piegato, ma gli stava quasi cadendo la mandibola di fronte a tutte queste proposte. Grazie a Marta Cagnola per essere stata con noi. Qualche dolorino al ginocchio, Marta, tu lo avverti? No, guarda, io ero indecisa tra gomito del tennis, il ginocchio della lavandaia, no, forse il ginocchio della lavandaia, questo è il mio ideale. A forza di fare salti, altro che il ginocchio della lavandaia, peggiora ulteriormente, anche se non sono i salti a farlo infiammare. No. E quando ci si mette in ginocchio per terra si crea quella che viene chiamata la borsite, cioè diciamo che dove c'è un osso che ha contatto quasi diretto con la pelle, sì, madre natura ha messo delle borse che riducono questo attrito. Se queste borse si infiammano, le borse si riempiono di liquido e danno queste borsiti, che non è un problema dell'articolazione, mm-hmm, ma è un problema al di fuori dell'articolazione. La si può avere anche per esempio nel gomito, la si può avere nell'anca a livello del trocantere, e diciamo che molto spesso richiede un intervento chirurgico, perché non sempre si riesce a far regredire questa infiammazione. Patrizia, buongiorno da Milano, poi abbiamo Piera da Treviso e chiude Gianfranco da Parma, ma naturalmente il nostro centralino è a vostra disposizione, 800 24 00 24. Facciamo questa infornata di tre ascoltatori. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo chiedere al professor D'Anchise, essendomi rotta l'anno scorso il legamento crociato anteriore, sì, non stavo correndo, io sono praticamente da un anno ex podista, facevo 40 chilometri, mi facevo i miei 15 chilometri, non tutti i giorni. Poteva continuare a correre, non si sarebbe rotto il crociato. Dica. Allora, ma infatti me lo sono rotto non correndo. Vede? Ma avevo le gambe flesse appoggiate al muro, stavo parlando a un certo punto. Ma scusi, ma come parla lei? Scusi, non ho capito, le gambe flesse appoggiate al muro, chiacchierava e si è rotto il crociato. Si sarà girata. Sì, le stavo dicendo, ruoto il corpo, probabilmente come mi spiegò l'ortopedico, c'è stata un'instabilità del ginocchio, praticamente non è rimasto fermo, ha ruotato anche lui e mi si è rotto il legamento del crociato. Ha avuto gonfiore anche sul retro, dopo 10 giorni di riposo ho fatto subito fisioterapia in acqua. E Patrizia, vediamo la domanda. Sì, la domanda è questa, posso ricominciare a correre? Sì, la risposta è sì. Sì, Ecco, ma devo mettere un tutore? La risposta è no. No. No, ecco, attenzione, no. La corsa però deve essere fatta su fondo uniforme. Perché questo? Perché la rottura del crociato anteriore comporta dei rischi di cedimento nei cambi di direzione o nei salti. È chiaro che il salto che lei fa correndo è un salto minimo con una muscolatura controllata e quindi il rischio di avere cedimento è estremamente, estremamente modesto. Mentre se va su un fondo non uniforme, su un, in montagna per dire, su un prato, se per caso prende una zona di terreno non uniforme è come se facesse un piccolo cambio di direzione e il ginocchio può cedere. Quindi certo, se lei va in linea retta, in linea di massima non c'è problema. L'alternativa, se ha dei problemi, ahimè, è quella di pensare ad una ricostruzione del crociato che dà degli ottimi risultati. Perché chi corre in avanti protegge il crociato. Sì, correre indietro è un po' difficile. No, vai in avanti sì, senza... è vero. Essere e benessere. Ritornerò sul ginocchio a te. E siamo tornati anche noi con Piera che ci chiama da Treviso. Buongiorno Piera, benvenuta. Sì, buongiorno, sono... Grazie per avermi chiamata. Allora, io volevo sapere, avere un'informazione da parte del... Sì, dica, siamo qua, dica. Piera, se lei va alla domanda, il professor D'Anchise capisce e risponde. Sì. Allora, io la chiamo perché ho un'allergia destra e sinistra e una gomalgia bilaterale. Che vuol dire male al ginocchio generico, però sì, qual è il problema? Esatto, io faccio abbastanza attività fisica e ho riscontrato che facendo la cicletta, quella orizzontale, mi fanno principalmente male le ginocchia, la parte laterale. Allora sono andata da un ortopedico e anche dal fisiatra che ho fatto anche delle terapie. E allora? Però i risultati non sono niente. Stati... Ma che diagnosi le hanno fatto? Perché da quello che lei racconta sembrerebbe un problema di cartilagine e che quindi insomma bisognerebbe inquadrare e capire perché mai è venuto fuori questo disturbo. Allora la diagnosi dice che... Senta Piera, io se lei ha la domanda sono lieta, ma se noi leggiamo le diagnosi al telefono secondo me non ci portiamo nulla a casa. Se ha una domanda specifica volentieri. Allora, le dico subito, io ho fatto appunto queste terapie, però l'ortopedico mi ha detto che devo fare anche delle infiltrazioni di acido ianurico. Ok, fermiamoci qua, fanno allora, bene, fanno male, dunque, si fanno? Bisogna capire bene, le infiltrazioni di acido ianuronico fanno sì che migliori la lubrificazione dell'articolazione e possono avere un effetto analgesico limitato nel tempo. Per quello che dice la letteratura, cioè quello che si legge nei vari, si sente nei vari congressi, non hanno un effetto reale di migliorare la cartilagine, quindi questo purtroppo è qualcosa che a volte si sente, quindi attenzione, va bene farne qualcuna se sia male, ma però... anche attenzione perché tutte le volte che noi mettiamo un ago in articolazione può esistere il rischio di avere delle infiammazioni o infezioni e questo potrebbe essere un grosso problema, quindi buon senso nel fare queste infiltrazioni. Andiamo a Parma, buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi, a tutti gli spettatori, al professor D'Anchise, che fra l'altro ne ho sentito molto parlare. Vede, allora Gianfranco, domanda. Io vorrei portare una testimonianza, non fare una domanda. Bravo, cosa ci dice? Dunque, io sono alto 2 metri circa, ho 60 e suonati anni e ringraziando Dio da 4 mesi non ho più il mio ginocchio, ma al suo posto ho una meravigliosa protesi in titanio. Sì. Non sono stato operato da D'Anchise ma da un suo collega, un altro ospedale, ma penso che si conoscano. E devo dire a tutti coloro i quali hanno problemi di cartilagini, vuoi per vecchiaia ma anche i giovani, vuoi per qualsiasi motivo, e salendo le scale hanno problemi, cominciano a salirle con una gamba sola, oppure scendendole ancora peggio. Sì. Sta dicendo mettete la protesi. Protesi a tutti, Gianfranco, perché a lei ha cambiato la vita. No, okay. Senza timore, perché si sente dire di tutto in giro, io che l'ho provata, vi dico, sì, non è una passeggiata, un po' di dolore, però... ma è una cosa fattibilissima, al punto tale che okay. io a dicembre dell'anno prossimo mi faccio anche l'altro ginocchio. Ok, grazie a Gianfranco per questo mi consente di dire due cose che sono molto importanti. Le protesi di ginocchio danno risultati stratosferici, ma attenzione, è un intervento chirurgico che può avere anche i suoi problemi, quindi i risultati sono molto brillanti, ma vanno fatte quando esiste l'indicazione, e per me l'indicazione è un'alterata qualità di vita, quindi non protesi a tutti, ma protesi a chi ne ha bisogno, con risultati molto buoni come avete visto. E dopo aver parlato del ginocchio del corridore, da lavandaia, da cinema, parliamo delle ankles. Sono le ginocchia rugose, un estetismo che pareggia un po' i conti perché colpisce le magrette o magroline. Un po' per uno, non io fa male a nessuno. Posso fare niente. Lei non può fare niente, ma che cosa si può fare per ridurre o prevenire il problema, oltre ad allungare un po' l'orlo della gonna? In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Attilio Speciani, allergologo, immunologo. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti voi. Iniziamo un po' da qualche consiglio per le ginocchia rugose che cadono. Ma oggi sì, mi sembra che sia una seduta in gamba, no? Come, sì. come dice, in ginocchio. Va bene, o in ginocchio, a seconda. Ma le ginocchia rugose sono un bel tema, e il fatto che ce l'abbiano, che è un problema fondamentalmente estetico apparentemente, in realtà è un problema legato davvero al fatto che è una caratteristica di persone che hanno poco muscolo e poco grasso disposto nei posti giusti. Quindi finalmente, anzi direi che vero. Può essere, come dire, la rivincita delle paffutelle, certo. no? Da un certo punto di vista. In realtà tocchiamo il tema perché sia l'alimentazione, sia lo sport, sia degli interventi locali possono fare del bene. Quando il ginocchio è rugoso è perché sono cadute le proteine, la gente non sta mangiando, sta sottoponendosi a regimi ipocalorici, quindi il muscolo praticamente non c'è più. Per cui ci sono degli aspetti come quello della prima colazione, di cui abbiamo spesso parlato, certo. che aiutano a dare all'organismo uno stimolo produttivo, costruttivo, no? Fa costruire muscolo, cioè l'organismo si sente ricco e quindi produce. Ogni volta che iniziamo a fare una dieta ipocalorica prolungata, la prima cosa che fa il muscolo è di perdersi. Quindi se avete fatto una dieta e il ginocchio è caduto, avete sbagliato dieta, dovete mangiare meglio. E bisogna ripartire. Vi siete mangiati i muscoli. Vi siete mangiati i muscoli. Esatto, assolutamente. Anche l'attività fisica, dottor Speciani, sì, aiuta? Sì, a me fa sorridere una cosa, l'attività fisica è fondamentale e necessaria, però io ricordo quando ero piccinino e avevo un maestro di sci che era un campione fantastico, faceva sci acrobatico e lui diceva, ma io al mattino mi metto, è un esercizio che possiamo fare chiunque sì. Abbia dei quadricipiti forti, lui aveva dei quadricipiti che erano fantastici, e ci si appoggia come sedersi su una seggiola, però quello che ha detto Fulvio muro. Massini, dottor Speciani, adesso fantastico. Tutti ci metteremo così la e poi stai lì e leggi il giornale per 20 minuti, mezz'ora. Lui lo faceva in questo modo, aveva dei quadricipiti fenomenali, una cosa pazzesca, e devo dire che senza arrivare ai 30 minuti del maestro di sci, però è un tema che può essere fatto certo. da chiunque per allenarsi in maniera giusta e riavere il ginocchio con la sua tonicità interna. E poi sappiamo che ci sono una serie di elementi, non è casuale che le sostanze, le varie creme o sostanze integratrici che si sì. possono usare, dal resveratrolo all'acido lipoico, alla perilla, cioè sono sostanze che possono aiutare, in realtà guarda caso, e qui tocco un tema che anche D'Anchide aveva sfiorato prima, vanno ad agire sull'infiammazione diffusa, quindi quando noi perdiamo muscolo, in più siamo anche infiammati e quindi abbiamo anche questa ritenzione d'acqua, le rughe sembrano davvero una cosa che è meglio nascondere, no? Quindi abbiamo degli strumenti validi che partono da delle scelte che vanno fatte in simpatia, tutto sommato. Grazie, dottor Speciani, per essere stato con noi. Torneremo a dedicare proprio una puntata intera con lei, partendo dal suo libro, tutto dedicato all'infiammazione e alle conseguenze dell'infiammazione. Siamo un po' tutte come delle pentole a pressione, come lei scrive nel suo libro. Esatto, esatto. Grazie, dottor Speciani. Sarà un piacere risentirti. A presto. Buongiorno. Professor D'Anchise, abbiamo un minutino per salutarci, ringraziarci reciprocamente, anche Carmelo Lauricella, il nostro centralino, Laura Vanossi così l'ho fatto, e chiedere di scaricare la puntata. Un consiglio per chiudere questa puntata tutta che ruota intorno tutta al ginocchio. Ma il consiglio di fondo è avere una buona muscolatura, cioè se noi vogliamo e dobbiamo fare una certa attività fisica, ricordiamoci di avere una muscolatura valida. Avete visto come diceva il nostro amico, come è difficile correre bene. Lui ha fatto un'osservazione: bisogna posizionarsi in un certo modo, il baricentro, quindi la scarpa, quindi qualsiasi attività fisica è giusto farla, ma bisogna farla bene e le ginocchia non avranno problemi. Insomma, usiamo la tecnica del buon senso. Grazie professor D'Anchise per essere stato con grazie noi. Noi ci sentiamo come sempre domani, parleremo di uomini, di padri e non solo. Io vi aspetto, buona giornata. Essere e benessere.